Nel tuo libro racconti tante storie di donne che hanno subito violenza, ma lo fai da una prospettiva differente. Quale? La prospettiva dei centri antiviolenza, da parte di un'esperienza lunga oltre 30 anni che riprende il confronto anche con le altre realtà nazionali. Ovviamente il nostro punto di vista è il punto di vista di chi vive nella quotidianità l'incontro con le donne che subiscono violenza, ma lo fa attraverso anche un filtro della propria emotività. Il nostro lavoro è differente dal lavoro degli altri servizi, tanto è vero che noi come centri antiviolenza non ci definiamo servizi ma qualcosa in più, perché nei centri antiviolenza, quelli gestiti dalle organizzazioni di donne, quelli storici, quelli femministi, lavoriamo con un approccio differente, con l'ottica di genere e soprattutto con la metodologia della relazione tra donne, che significa nell'immediato la possibilità di riportare la singola storia individuale ad una dimensione collettiva, restituendo alle donne un potere negoziale che non hanno perché in qualche modo perso nella relazione violenta, e soprattutto dimostrando in qualche modo alle donne che subiscono violenza non perché inadeguate, incapaci o perché hanno trovato l'uomo sbagliato, ma perché donne. E quindi questa dimensione della violenza maschile contro le donne come collettiva e come profondamente radicata nella struttura e nella cultura è quello che poi fa la differenza. È quello che spero sia passato nel racconto del libro, e spero che il libro venga colto per quello che vuole essere: un racconto autentico della violenza, una contronarrazione di quello che è poi il linguaggio comune e la storia della violenza come viene raccontata dai media. Infatti volevo chiedere quanto la narrazione mediatica incide sulle vostre realtà, le realtà dei centri antiviolenza, e su in generale gli stereotipi di genere che ci sono. Sicuramente tantissimo, perché per tanti anni la violenza è stata occultata, negata, e noi abbiamo fatto tanta fatica a visibilizzarla. Quando si è cominciato finalmente a parlare della violenza maschile contro le donne, lo si è fatto anche usurpando termini, no, del linguaggio femminista come femminicidio, ma riproponendo molti stereotipi culturali, innanzitutto rappresentandola come appannaggio di contesti socioculturali degradati o comunque agita da uomini in qualche modo devianti da una norma, quindi tossicodipendenti, persone con problemi di disagio mentale, non a caso ancora si parla di rapto. Quindi lo spostamento della violenza in un altrove, differente dalla normalità. E poi è chiaro che la rappresentazione della violenza dei media è molto vittimizzante per le donne. Vediamo il sangue, vediamo la morte, vediamo donne fragili, vulnerabili, che non ce l'hanno fatta. Mentre quello che noi dobbiamo raccontare è la forza delle donne, la capacità delle donne di riprendersi la propria vita, di uscire dalla violenza. Per questo non è un destino. Nella serie ce la possiamo fare tutte a liberarci dalla violenza. Tra l'altro i femminicidi sono un numero spropositato, sono sempre tantissimi, ma stiamo parlando di 100-120 donne che ogni anno muoiono, e non parliamo mai delle 25.000-30.000 che ogni anno, grazie al lavoro di centri antiviolenza, non muoiono, si salvano, rischiano la propria vita, si riprendono in qualche modo la libertà, gli spazi di azione, il protagonismo, la soggettività. Ed è questo quello che noi vogliamo rappresentare come violenza. Ed è chiaro che il linguaggio dei media, che la modalità di comunicare su questo tema, non soltanto assolutamente diversa dalla realtà ed è fuorviante, ma ripropone stereotipi, ripropone una modalità di viverlo il problema che non aiuta, che scoraggia le donne. Quando le donne sentono, nonostante avesse più volte denunciato è morta, chiaramente si sentono ostacolate nel percorso di liberazione da un compagno violento. Ricordiamo che si parlerà di questi argomenti anche del libro Non è destino, la violenza maschile contro le donne oltre gli stereotipi, il 2 dicembre dalle 18 alle 19 all'interno del festival La Violenza Illustrata.